Do il benvenuto ai microfoni di Radicita Fujiko ad Amedeo Sole, direttore artistico di Montagna alla Republic, che è in collegamento telefonico con noi per parlarci di una 5 giorni tra il 21 e il 25 aprile molto particolare. Ciao Amedeo, bentornato su Radicita Fujiko. Ciao a tutti e a tutte, è sempre un piacere insomma ritornare alla Radicita Fujiko. Anche per noi risentirti. Come dicevo prima, dal 21 al 25 aprile si terrà nel Parco della Montagnola il Bologna Baskers Festival. Hai voglia di raccontarci di questa iniziativa, come è nato questo evento? Sì, allora praticamente vi spiego tra genesi un secondo della rassegna, che sono 5 giorni di spettacoli con giocoleria, con musica dal vivo e DJ set. Poi ci sarà anche tanto cibo di strada con track food da tutta Italia. Cioè, tendenzialmente l'idea è appunto legare fondamentalmente la giocoleria con la musica dentro una rassegna che è quella di Montagna alla Republic, che diciamo che è una sorta di preview della rassegna che poi ci sarà su maggio fino a ottobre, insomma, nel Parco della Montagnola. Ci saranno comunque tantissimi spettacoli di giocoleria, ci saranno ogni sera un concerto musicale con gli Schiantos la prima sera del 21 aprile, il 22 ci sarà il DJ set dell'Internazionale del Trash Ribelle, il 23 ci sarà un gruppo locale però che ha origini comunque diciamo dal mondo, che sono i Super Cumbia, il 24 ci saranno gli Spagna Circo Est e il 25 si chiuderà con i Rumba de Bodas, tutta la parte musicale che comunque sarà il giorno della liberazione, su cui saranno anche tante altre iniziative che comunque ricorderanno tutte le giornate appunto della liberazione dal nazifascismo in Italia. Saranno comunque delle giornate che partiranno presto dalla mattina, dalle 11 di mattina già ci saranno vari track del cibo e ci saranno delle iniziative per bambini connesse sempre alla giocoleria e poi spettacoli, concerti fino alle 23:30 ogni sera. Ogni giorno, tra l'altro, si legge sul programma che è online su evento Facebook la possibilità baskers itineranti e baskers show. Ti chiedo se è possibile autonomamente venire e portare la propria arte di strada oppure c'è un criterio di selezione entro cui bisogna aderire. Allora, sarà possibile sicuramente ogni giorno venire, partecipare direttamente presentandosi in Montagnola. Praticamente basterà semplicemente informarsi prima e scriverci sulla mail montagnolarepublic@gmail.com, così da rendere meglio organizzarsi con gli orari rispetto alle varie esibizioni. Però diciamo che se uno vuole presentarsi direttamente là, insomma, comunque pensiamo che potrà fare il suo spettacolo dentro una maniera autonoma. Questo. E poi ci sarà l'area baskers, diciamo quella più organizzata nel parco principale, dove invece c'è tutto una calendarizzazione degli eventi. Una calendarizzazione degli eventi che chiaramente bisognerà scoprire poi anche venendo ai giorni del festival. Ti chiedo però, mi sembrava che parlando tu citassi tanto arte di strada in senso di giocoleria e arte circense, ti chiedo se ci sarà anche spazio per la musica di strada e quindi esibizioni di musica live. Ci può anche essere spazio per la musica live, però chiaramente connessa rispetto agli altri spettacoli, che comunque, visto che lo spazio è sempre quello della Montagnola, chiaramente ci organizzeremo in maniera tale che gli spettacoli non si danno fastidio uno con l'altro dal punto di vista acustico. Certamente. Amedeo, allora io ti ringrazio e invito tutte e tutti ad esserci dal 21 al 25 aprile al Parco della Montagnola per il Bologna Baskers Festival e ci vediamo lì. Perfetto, ti ringrazio, ti aspettiamo in Montagnola per quelle giornate. Grazie a tutti.